16. Sotto un cielo purpureo e ambrato, Valency si incamminò percorrendo la strada del Mista Wis verso la dimora di Roaring Able, il cuore colmo di una strana euforia e di aspettativa. Laggiù, dietro di lei, sua madre e la cugina Stickles stavano piangendo, si piangevano addosso, non piangevano per lei. Ma qui il vento le alitava in faccia, delicato, pregno di rugiada, fresco, mentre sibilava sulle strade erbose. Oh, come amava il vento! I petirossi cinguettavano assonnati tra gli abeti che costeggiavano la strada e l'aria umida e fragrante era carica di odori balsamici. Delle grosse auto sfrecciavano, vibrando in mezzo alla violacea foschia. L'esodo di turisti estivi diretti nel Muskoka era già iniziato. Ma Valency non invidiava nessuno dei suoi occupanti. I cottage nel Muskoka potevano essere affascinanti, ma più in alto, nei cieli del tramonto e tra le spire degli abeti, torreggiava il suo castello blu. Si scrollò di dosso i vecchi anni, le vecchie abitudini e le vecchie inibizioni, come se fossero foglie morte. Non avrebbe loro permesso di angustiarla. La sgangherata, precaria e vecchia casa di Roaring Able distava circa 3 miglia dal paese ed era situata proprio sul limitare della landa desolata, come veniva definita in vernacolo la collinare e boschiva campagna scarsamente abitata intorno al Mista Wis. Si deve ammettere che non assomigliava molto a un castello blu. Un tempo era stato un luogo piuttosto accogliente, quando Abel Gay era giovane e benestante e sopra il cancello aveva pitturato di fresco l'insegna arcuata con il giro di parole A. Gay Carpenter, un gioioso carpentiere. Adesso era un vecchio posto spettrale e spaventoso, con il tetto disastrato e rattoppato e le imposte che penzolavano di traverso. A quanto pareva, Abel non eseguiva mai lavori di carpenteria a casa sua. L'edificio aveva un'aria indifferente, come se fosse stanco di vivere. Sul retro si estendeva un sempre più rado boschetto di ispidi e vecchi abeti che assomigliavano a delle arpie. Il giardino, che Sissi aveva avuto l'abitudine di tenere ordinato e grazioso, era divenuto un luogo selvaggio. Su ambo i lati la casa era circondata da campi, ove crescevano soltanto verghe auree. Sul retro era visibile una lunga striscia di sterili lande invase da macchie di pini e abeti rossi, tra i quali cresceva qualche selvatico ciliegio in fiore. Essa si estendeva fino ad una regione di legnami sulle coste del lago Mista Wis, che si trovava a 2 miglia di distanza. Un'accidentata, rocciosa e ciottolosa viuzza, imbiancata da una distesa di profumate e bellissime margherite, attraversava la boscaglia. Roaring Able incontrò Valency sulla porta. «Così sei venuta?» disse con incredulità. Non avrei mai pensato che quella cricca degli Sterling potesse lasciarti andare. Valency gli sorrise, mostrando tutti i denti aguzzi. Non avrebbero potuto impedirmelo. Oh, non ti ritenevo così audace, disse Roaring Able con ammirazione. E guardate che belle caviglie, aggiunse, mentre si faceva da parte per lasciarla passare. Se la cugina Stickles avesse udito quell'osservazione, sarebbe stata certa che il destino di Valency, terreno o ultraterreno, fosse segnato. Ma l'antiquata galanteria di Abel non preoccupò Valency. Inoltre, questo era il suo primo complimento, era il primo che avesse mai ricevuto in vita sua e lo trovò piacevole. Qualche volta aveva sospettato di avere delle belle caviglie, ma nessuno lo aveva detto apertamente. Nel clan degli Sterling le caviglie facevano parte di ciò che non si poteva menzionare. Roaring Able la condusse in cucina, dove Sissi giaceva sul divano, il respiro affannoso e le scarne guance tempestate di macchioline scarlatte. Valency non vedeva Cecilia da anni. All'epoca era una creatura tanto graziosa, un'esile ragazza con l'aspetto di un bocciolo, con morbidi capelli dorati, tratti quasi cerei e ben delineati e grandi, bellissimi occhi blu. Valency rimase scioccata dal cambiamento avvenuto in lei. Poteva essere questa la dolce Sissi? Questa cosina pietosa che aveva l'aspetto di uno stanco fiore spezzato? Le lacrime avevano spazzato via tutta la bellezza dei suoi occhi. Apparivano troppo grandi, enormi, nel volto devastato. L'ultima volta che Valency aveva visto Cecilia Gay, quegli sbiaditi e pietosi occhi erano limpidi, delle pozze di un blu indefinito, ardenti di gioia. Il contrasto fu così terribile che gli occhi di Valency si riempirono di lacrime. Si inginocchiò vicino a Sissi e la cinse con le braccia. Sissi, cara, sono venuta a prendermi cura di te. Starò con te finché lo vorrai. Oh! Sissi mise le scarne braccia attorno al collo di Valency. Oh, davvero! Sono stata così sola! Posso prendermi cura di me? Ma sono stata così sola! Sarebbe semplicemente un sogno avere qui qualcuno come te. Eri sempre così dolce con me tanto tempo fa. Valency tenne Sissi stretta a sé e si sentì improvvisamente felice. Qui c'era qualcuno che aveva bisogno di lei, qualcuno che lei poteva aiutare. Non era più inutile. Le vecchie cose non esistevano più, tutto era nuovo. La maggior parte delle cose è predestinata, alcune invece sono una dannata fortuna, pura e semplice, disse Roaring Abel, fumando con piacere in un angolo la propria pipa. 17. Quando Valency ebbe trascorso una settimana a casa di Roaring Abel, le sembrò che anni e anni la separassero dalla sua vecchia vita e dalle persone che vi aveva conosciuto. Esse iniziavano ad apparire remote, irreali, distanti. E mentre i giorni scorrevano, quella sensazione si amplificò fino a rendere tutto quanto d'un tratto insignificante. Lei era felice, nessuno più la infastidiva con degli enigmi o insisteva per darle le pillole color porpora. Nessuno la chiamava addosso e si preoccupava che lei prendesse freddo. Non c'erano trapunte da riparare, né abominevoli ficus da annaffiare o gelidi capricci materni da sopportare. Poteva restarsene da sola quando lo desiderava, andare a letto quando voleva e starnutire quando ne aveva voglia. Durante i lunghi e meravigliosi crepuscoli del nord, quando Sissi dormiva e Roaring Abel era fuori, poteva rimanere seduta per delle ore sui traballanti gradini della veranda interna, lo sguardo che vagava al di là delle aride terre fino alle colline ammantate dalla bella fioritura purpurea. Poteva ascoltare l'amichevole vento che intonava selvagge e dolci melodie tra i piccoli abeti rossi. Poteva bere l'aroma dell'erba scaldata dal sole finché l'oscurità si riversava sul paesaggio come una fredda e gradita ondata. Talvolta, quando Sissi era abbastanza in forze, durante il pomeriggio le due ragazze si inoltravano nelle lande per osservare i fiori del bosco, ma non ne coglievano alcuno. Valency aveva letto a Sissi la sacrosanta verità, secondo John Foster, è un peccato raccogliere i fiori del bosco, essi perdono metà del loro incanto quanto a colore e lucentezza. L'unico modo per goderne è quello di scovarli nei loro remoti rifugi, gioire in loro presenza e poi lasciarli, indirizzando loro degli sguardi mentre ci allontaniamo, portando con noi soltanto l'allettante ricordo della loro grazia e della loro fragranza. Dopo una vita fatta di inconsistenze, Valency si trovò attorniata da cose reali ed era occupata, molto occupata. La casa doveva essere pulita, non per niente Valency era stata cresciuta dagli Sterling con l'abitudine all'ordine e alla pulizia. Se avesse provato soddisfazione nel detergere stanze sporche, lì avrebbe trovato pieno appagamento. Roaring Abel pensava che lei fosse sciocca nel fare tanto più di quanto le veniva richiesto, tuttavia non interferiva in alcun modo. Era molto soddisfatto di quell'affare. Valency era una brava cuoca. Abel diceva che riusciva a dare sapore alle cose. L'unico difetto che le attribuiva era che non cantava mentre era al lavoro. La gente canta sempre mentre lavora, insisté. Trasmette allegria. Non sempre, controbatté Valency. Pensi se un macellaio cantasse mentre è al lavoro o un impresario di pompe funebri. Abel proruppe nella sua fragorosa risata. Non c'è modo di avere la meglio su di te, eh? Tutte le volte hai una risposta pronta. Scommetto che gli Sterling sono felici di essersi sbarazzati di te. Non amano che si controbatta loro. Generalmente Abel era fuori casa per la gran parte della giornata. Se non lavorava, allora andava a caccia o a pesca con Barney Snaith. Di solito rientrava di notte, sempre molto tardi e spesso assai ubriaco. La prima notte che lo sentirono ululare in cortile, Sissi disse a Valency di non spaventarsi. Il papà non fa mai niente, soltanto del gran baccano. Valency, sdraiata sul sofà nella stanza di Sissi, dove aveva scelto di dormire nel timore che lei potesse avere bisogno di attenzione durante la notte, anche se Sissi non l'avrebbe mai chiamata, non era affatto spaventata, come volle sottolineare. Frattanto, Abel aveva già messo via i cavalli e lo stadio chiassoso si era estinto per lasciare spazio a quello del pianto e della preghiera che trovò sfogo nella sua camera in fondo alla sala. Velen si poteva ancora udire i malinconici gemiti quando si abbandonò quietamente al sonno. Per lo più, Abel era una mite creatura. Talvolta però aveva un brutto carattere. Una volta Velen si gli chiese freddamente: a cosa serve infuriarsi? È un così dannato sollievo, disse Abel, ed entrambi scoppiarono a ridere. Sei davvero un grande spasso, affermò Abel con ammirazione. Non preoccuparti per il mio pessimo francese, non significa niente, pura abitudine. Beh, mi piace una donna che non ha paura di parlare con me. Sì, sei sempre stata troppo mite, troppo mite. Ecco perché è andata alla deriva. Tu mi piaci. Lo stesso vale per me, disse Valency con determinazione. Non ha alcun senso mandare tutto all'inferno come fa sempre lei, e non intendo permetterle di imbrattare di fango il pavimento che ho appena sfregato. Deve usare il raschietto, che la cosa le vada genio o meno. Sissi amava la pulizia e l'ordine. Anche lei era stata molto meticolosa finché le forze non l'avevano abbandonata. Era davvero pietosamente felice per il fatto che Velen si fosse lì con lei. Erano stati così terribili quei giorni e quelle notti interminabili e solitarie, senza alcuna compagnia, ad eccezione di quelle spaventose vegliarde che venivano lì per lavorare. Sissi le aveva detestate e temute. Si attaccò invece a Velency come avrebbe fatto un bambino. Non c'era alcun dubbio che Sissi stesse morendo, eppure non sembrava mai spaventosamente malata, non tossiva neppure granché. La maggior parte dei giorni era in grado di alzarsi e vestirsi, talvolta persino di lavorare attorno al giardino, oppure alle lande, per un'ora o due. Per alcune settimane dall'arrivo di Valency la sua salute sembrava così migliorata che Valency iniziò a sperare che potesse guarire. Ma Sissi scuoteva la testa: no, non posso guarire. I miei polmoni sono per lo più andati, inoltre io non voglio. Sono così stanca, Valency. Soltanto la morte può donarmi il riposo. Ma è meraviglioso che tu sia qui. Non saprai mai quanto significhi per me. Ma Valency, tu lavori troppo duramente. Non devi. Il papà vuole soltanto che gli cucini pasti. Credo che neppure tu sia tanto forte. Talvolta diventi così pallida. E quelle gocce che prendi, stai bene, cara? Io sì, sto bene, disse Valency con leggerezza. Non avrebbe permesso che Sissi si preoccupasse per lei. Inoltre non lavoro duramente. Sono felice di avere qualcosa da fare, qualcosa di veramente indispensabile. Allora, Sissi fece nostalgicamente scivolare la sua mano in quella di Valency. Non parliamo più del fatto che sono malata. Cerchiamo semplicemente di dimenticarlo. Fingiamo che io sia di nuovo una ragazzina e che tu sia venuta qua per giocare con me. Lo desideravo tanto tempo fa. Speravo che tu potessi venire. Sapevo che non ti era possibile, naturalmente, ma come lo desideravo. Sembravi sempre così diversa dalle altre ragazze, così gentile e dolce. Era come se ci fosse qualcosa dentro di te di inaccessibile agli altri, qualche bel segreto a te caro. Ce l'avevi, Valency? Avevo il mio castello blu, disse Valency ridendo debolmente. Era felice che Sissi avesse pensato a lei a quel modo. Non aveva mai immaginato di piacere a qualcuno o che qualcuna l'ammirasse e pensasse a lei. A Sissi raccontò tutto del suo castello blu. Non ne aveva mai parlato con nessuno prima di allora. Credo che tutti abbiano il loro castello blu, disse dolcemente Sissi. È solo che ognuno gli attribuisce un nome diverso. Anche io avevo il mio, un tempo. Si portò le esili manine al volto. Allora non disse però a Valency chi avesse distrutto il suo castello blu, ma Valency comprese che chiunque fosse stato, non si trattava certo di Barney Snaith. 18. Ormai Valency ben conosceva Barney Snaith, o così le sembrava, sebbene gli avesse parlato soltanto poche volte. Del resto però aveva avuto quella sensazione fin dal primo momento in cui l'aveva incontrato. Si trovava in giardino durante il crepuscolo, in cerca di alcuni gambi di narcisi bianchi per la camera di Sissi, quando udì quella terribile Grace Lawson scendere dal Mista Wis attraverso le foreste. Si poteva udirla a miglia di distanza. Valency non alzò lo sguardo mentre l'auto si avvicinava rimbalzando sopra le rocce di quella pazza stradina. Non l'aveva mai fatto, sebbene Barney l'avesse rumorosamente percorsa ogni sera da quando lei si trovava a casa di Roaring Gables. Questa volta Barney non proseguì la sua fragorosa corsa. La vecchia Grace Lawson si fermò con un frastuono ancora più terribile di quello che produceva quando era in marcia. Valency sapeva che Barney era saltato fuori dall'auto e che si stava allungando verso lo sgangherato cancello. D'un tratto si raddrizzò e lo guardò in faccia. I loro occhi si incontrarono. Valency avvertì improvvisamente una deliziosa debolezza. Stava per avere uno dei suoi attacchi di cuore, ma questo era un sintomo del tutto nuovo. I suoi occhi, che lei aveva sempre creduto marroni, visti da vicino erano viola scuro, luminosi e intensi. Le due sopracciglia erano diverse tra loro. Era magro, troppo magro. Avrebbe desiderato nutrirlo, cucirgli i bottoni sul cappotto, convincerlo a tagliarsi i capelli e a radersi ogni giorno. C'era qualcosa nel suo volto. Era difficile dire che cosa. Stanchezza? Tristezza? Disinganno? Quando sorrideva aveva le fossette nelle guance magre. Tutti questi pensieri affollarono la mente di Valency nell'istante in cui gli occhi di lui incontrarono i suoi. Buonasera, Miss Sterling. Niente poteva essere più banale e convenzionale. Chiunque avrebbe potuto dirlo, ma Barney aveva un modo di dire le cose che conferiva loro intensità. Quando diceva buonasera, sentivi che era veramente una buona sera e che ciò dipendeva in parte da lui. Inoltre, sentivi che parte del merito era anche tuo. Valency avvertiva tutto questo vagamente, ma non riusciva a immaginare perché stesse tremando dalla testa ai piedi. Doveva essere il suo cuore. Oh, se soltanto lui non lo avesse notato. Sono diretto a Port Lawrence, stava dicendo lui. Posso avere il merito di procurarmi là qualcosa per lei o per Sissi, oppure di fare qualche utile commissione? Ah, sì, sarebbe così gentile da prendere per noi del merluzzo salato? Rispose Valency. Era l'unica cosa alla quale riuscisse a pensare. Quel giorno Roaring Gables aveva espresso il desiderio di cenare con del bollito di merluzzo salato. Quando i suoi cavalieri tornavano al galoppo al Castello Blu, Valency aveva loro affidato numerose commissioni, ma non aveva mai chiesto loro del merluzzo salato. Certamente. È sicura che non le occorra nient'altro? C'è un sacco di spazio in Lady Jane Grey, Slosson, e presto o tardi Lady Jane ci riporta sempre indietro. Non credo ci sia altro, disse Valency. Sapeva che lui avrebbe comunque portato delle arance per Sissi, lo faceva sempre. Barney non si voltò subito. Per un po' restò in silenzio, poi affermò in modo pacato e stravagante: Miss Sterling, lei è una brava persona. Una bravissima persona a venire qui a prendersi cura di Sissi, date le circostanze. Oh, no, non c'è niente di tanto nobile in tutto ciò, disse Valency. Non avrei altro da fare, mi piace stare qui. Non mi sembra di fare qualcosa di particolarmente meritevoli. Mister Gay mi paga bene, non ho mai guadagnato del denaro prima d'ora e la cosa mi piace. Sembrava così semplice parlare a Barney Snaith. Questo terribile Barney Snaith, protagonista di storie scandalose e con un misterioso passato, tanto semplice e naturale come parlare a se stessi. Tutto il denaro del mondo non potrebbe comprare quello che lei sta facendo per Sissi Gay, disse Barney. È meraviglioso e bello da parte sua, e se c'è qualcosa in cui io possa aiutarla per tale scopo, deve soltanto farmelo sapere. Se Roaring Gables dovesse mai tentare di importunarla. Oh no, non c'è problema, lui è gentile con me. Mi piace Roaring Gables, rispose Valency con franchezza. Anche a me. Ma c'è uno stadio della sua sbornia, forse ancora non lo ha visto, in cui canta canzoni licenziose. Oh sì, l'altra notte è rientrato in quello stato, io e Sissi ci siamo limitati a chiuderci nelle nostre stanze, da dove non potevamo udirlo. Si è scusato questa mattina. Nessuno degli stadi della sua sbornia mi spaventa. Beh, sono certo che la tratterà con decenza, fatta eccezione per i suoi ululati da ubriaco, affermò Barney. Inoltre gli ho detto che deve smetterla di imprecare in sua presenza. E perché? chiese furtivamente Valency con uno dei suoi strani sguardi obliqui e un improvviso rossore su entrambe le guance, dovuto al pensiero che Barney Snaith avesse davvero fatto così tanto per lei. Avrei spesso voglia di imprecare io stessa. Barney la fissò per un istante. Era questa giovane elfa, la piccola zitella che stava dinanzi a lui 2 minuti prima? Di sicuro, in quel vecchio sciatto giardino pieno di erbacce, stava accadendo qualcosa di magico e diabolico. Poi rise. Allora sarà un sollievo poter avere qualcuno che lo fa per lei. È sicura che non le serva altro oltre al merluzzo salato? Non stasera, ma sono certa che potrò spesso assegnarle delle incombenze quando andrà a Port Lawrence. Non credo che Mr. Gay possa ricordarsi di portare tutto ciò che desidero. Allora Barney se ne andò con la sua Lady Jane e Valency restò a lungo in piedi in giardino. Da quel giorno lui si presentò diverse volte scendendo a piedi attraverso le lande e fischiettando, come echeggiava quel suo fischio attraverso i rossi abeti nelle ore crepuscolari del mese di giugno. Valency si scoprì in ascolto di quel suono ogni sera. Si rimproverò per questo e poi si lasciò andare. Perché non avrebbe dovuto ascoltarlo? Portava sempre della frutta e dei fiori per Sissi. Una volta dette a Valency una scatola di caramelle, la prima che le fosse mai stata donata. Mangiarle sembrava un sacrilegio. Si scoprì a pensarlo in ogni momento. Desiderava sapere se lui la pensava mai quando non l'aveva davanti agli occhi. E in tal caso, che cosa pensava? Voleva vedere quella sua misteriosa casa sulla lontana isola del Mistawis. Sissi non l'aveva mai vista, sebbene parlasse liberamente di Barney e lo conoscesse da 5 anni. Non sapeva di lui molto di più di quanto non ne sapesse Valency stessa. Ma non è cattivo, disse Sissi. Gli altri non hanno alcun bisogno di dirmi che lo è. Non può aver commesso una sola cosa di cui vergognarsi. Allora perché vive a quel modo? Chiese Valency per sentire qualcuno che prendeva le sue difese. Non lo so, è un mistero. E c'è naturalmente dietro qualcosa, ma so che non si tratta di una disgrazia. Barney Snaith sarebbe assolutamente incapace di commettere qualcosa di orribile, Valency. Valency non era così certa. Barney doveva avere fatto qualcosa a un certo punto della sua vita. Era un uomo colto e intelligente. Aveva presto avuto modo di appurarlo mentre ascoltava le conversazioni e le discussioni che teneva con Roaring Abel, che era a sua volta sorprendentemente edotto e in pieno giorno poteva parlare di qualsiasi argomento quando era sobrio. Un uomo del genere non si sarebbe seppellito per 5 anni nel Muskoka e vi avrebbe vissuto come un pezzente se non ci fosse stata una ragione più che buona o un malsano motivo. Ma tutto questo non aveva alcuna importanza. Quello che contava era che adesso lei era sicura che non fosse mai stato l'innamorato di Sissi Gay. Non c'era niente del genere tra di loro, sebbene si piacessero molto, come era evidente per tutti. Era questa, però, una simpatia che non preoccupava Valency. Non sai che cosa Barney sia stato per me in questi 2 anni, aveva detto Sissi con semplicità. Sarebbe stato tutto insopportabile senza lui. Sissi Gay è la ragazza più dolce che io abbia mai conosciuto. E c'è un uomo da qualche parte al quale mi piacerebbe sparare se riuscissi a trovarlo, aveva affermato Barney con veemenza. Barney era un interessante oratore e che aveva il dono di raccontare un bel po' riguardo alle sue avventure e assolutamente niente di se stesso. Ci fu un glorioso e piovoso giorno durante il quale Barney e Abel trascorsero tutto il pomeriggio a raccontarsi storie, mentre Valency li ascoltava intenta a rammendare delle tovaglie. Barney narrò di bizzarre avventure sui treni, condivise con dei pezzenti mentre vagabondava attraverso il continente. Valency pensava che i suoi viaggi clandestini avrebbero dovuto sembrarle spaventosi, ma non era così. La storia di come avesse raggiunto l'Inghilterra su una nave carica di bestiame suonava più legittima. E i suoi racconti nello Yukon l'affascinavano, specialmente quello della notte in cui si era perso nella diramazione tra il Gold Run e la Sulphur Valley. Aveva trascorso 2 anni laggiù. Come poteva essergli rimasto del tempo per il penitenziario e altre cose? Sempre che dicesse la verità, ma Valency sapeva che era così. Non ho trovato l'oro, disse. Sono ritornato più povero di quando sono partito, ma che meraviglia di luogo in cui vivere. Quei silenzi che seguivano l'infuriare del vento del nord mi hanno ammaliato. Da allora non sono più stato me stesso. Ciò nonostante, non era un gran chiacchierone. Riusciva a dire una gran quantità di cose in poche frasi ben scelte. Quanto ben scelte, Valency non era in grado di comprenderlo e aveva il dono di parlare senza aprire bocca. Mi piace un uomo i cui occhi esprimano più delle sue labbra, pensava Valency. Del resto, però, le piaceva tutto di lui: i suoi capelli fulvi, i suoi sorrisi stravaganti, le piccole scintille di divertimento negli occhi, il suo leale affetto per quella indescrivibile Lady Jane, l'abitudine di sedere con le mani in tasca e il mento sprofondato nel petto e il suo modo di guardare da sotto le sopracciglia asimmetriche. Amava la sua bella voce, che sembrava potesse farsi carezzevole o seducente con un non nulla. Talvolta l'idea di lasciarsi andare a tali pensieri la spaventava. Erano talmente vividi da darle l'impressione che gli altri potessero sapere che cosa le passava per la testa. Sono rimasto tutta la giornata a guardare un picchio, disse una sera mentre si trovava nella vecchia traballante veranda interna. Il resoconto che fece delle attività del picchio fu soddisfacente. Aveva spesso da raccontare qualche gradevole e interessante aneddoto sui montanari e qualche volta lui e Roaring Gable fumavano ininterrottamente per tutta la sera senza pronunciare una singola parola, con Sissy distesa nella maca attaccata ai pali della veranda e Valency che, seduta pigramente sui gradini, con le mani intrecciate sulle ginocchia, si chiedeva con aria sognante se lei fosse realmente Valency Stirling e se fossero trascorse appena 3 settimane da quando aveva lasciato la brutta e vecchia casa di Elm Street. Le aride distese si dispiegavano di fronte a lei in un bianco splendore lunare, con dozzine di conigli che saltellavano qua e là. Quando era dell'umore, Barney poteva sedersi sul margine delle aride terre e attirare a sé quei conigli grazie a qualche misteriosa stregoneria. Una volta Valency aveva visto uno scoiattolo balzar giù da un pino e atterrare sulla sua spalla per starsene poi lì, seduto a conversare con lui. Tutto ciò le ricordò John Foster. Era una delle delizie della sua nuova vita quella di poter leggere i libri di John Foster con la frequenza e per tutto il tempo che lei desiderasse. Li lesse tutti a Sissi, che li adorò. Tentò di leggerli persino ad Abel. Tentò di leggerli persino a Barney e ad Abel, che invece non li apprezzarono. Abel si annoiava e Barney si rifiutò educatamente di ascoltare. Sciocchezze, disse Barney. 19. Naturalmente gli Stirling non avevano lasciato in pace la povera pazza per tutto questo tempo, né avevano frenato i loro eroici sforzi per salvare la sua anima dannata e la sua reputazione. Lo zio James, il cui legale non lo aveva aiutato più del medico, si presentò un giorno e, trovando Valency in cucina da sola, come aveva supposto, le fece una terribile ramanzina. Le disse che stava spezzando il cuore a sua madre, che stava disonorando la famiglia. «Ma perché?» chiese Valency senza smettere di fregare diligentemente la padella per il porridge. «Sto lavorando onestamente per una paga onesta. Che cosa c'è di disonorevole in tutto questo?» «Non disquisire, Valency!» disse lo zio James con tono solenne. Questo posto non è adatto a te e lo sai bene. Beh, mi hanno riferito che quell'avanzo di galera, Snaith, capita da queste parti tutte le sere. Non tutte le sere, affermò Valency con ponderatezza. No, non tutte le sere. Ma è inammissibile, disse lo zio James con impeto. Valency, devi tornartene a casa. Non ti giudicheremo troppo severamente, te lo assicuro. Ci metteremo una pietra sopra. Grazie, disse Valency. Non provi alcuna vergogna? Domandò lo zio James. Oh sì, ma le cose per le quali provo vergogna non sono le stesse per le quali la provi tu. Valency continuò meticolosamente a risciacquare il canovaccio. Ciò nonostante, lo zio James mantenne la calma, afferrò i lati della sedia e digrignò i denti. Sappiamo che la tua testa ha qualcosa che non va, ne terremo conto, ma devi tornare a casa, non resterai qui in compagnia di quell'ubriacona e blasfema vecchia canaglia. Per caso si stava riferendo a me, Mr. Stirling? Domandò Roaring Gable, comparendo improvvisamente sulla soglia della veranda posteriore, dove era intento a fumarsi una pipa in santa pace e stava ascoltando con enorme divertimento la tirata del vecchio Jim Stirling. La barba rossiccia si drizzò per l'indignazione e le gigantesche sopracciglia presero a tremare, ma la codardia non rientrava tra i difetti di James Sterling. Proprio così, e per di più desidero dirle che ha recitato una parte iniqua nell'allontanare questa fragile e sfortunata ragazza dalla sua famiglia e dai suoi amici, e farò in modo che paghi per questo. James Sterling non poté pronunciarsi oltre. Roaring Abel attraversò la cucina in un baleno, lo afferrò per il colletto e per i pantaloni e dalla soglia lo scagliò oltre la recinzione del giardino, apparentemente con la stessa facilità con cui avrebbe sbattuto fuori un fastidioso micino. «La prossima volta che verrà qui», sbraitò, «la lancerò fuori dalla finestra. È tanto meglio se sarà chiusa. Ah, venire qua credendosi Dio per mettere ordine nel mondo!» Valency dovette candidamente e spudoratamente riconoscere a se stessa di aver visto ben poche cose soddisfacenti, come le falde del cappotto dello zio James che volavano nel letto di asparagi. Un tempo aveva temuto il giudizio di quest'uomo, ora vedeva chiaramente come lui non fosse altro che un piccolo e campagnolo idolo assai poco intelligente. Roaring Abel si voltò con un largo sorriso. Se ne ricorderà per anni quando si sveglierà durante la notte. L'Onnipotente ha commesso un errore nel creare così tanti Sterling, ma dato che ci sono, dobbiamo fare i conti con loro. Ce ne sono troppi per poterli fare fuori. Ma se hanno intenzione di venire qui a importunarti, sparerò loro prima che un gatto abbia avuto il tempo di leccarsi l'orecchio. La volta successiva gli Sterling mandarono il dottor Stalling. Sicuramente Roaring Abel non lo avrebbe scaraventato nel letto di asparagi. Il dottor Stalling non era troppo certo e quel compito non lo allettava affatto. Non pensava che Valency Sterling fosse ammattita. Era sempre stata strana. Lui, il dottor Stalling, non era mai riuscito a capirla. Pertanto era indubbiamente strana. Ora era soltanto più bizzarra del solito. Inoltre il dottor Stalling aveva i suoi motivi per non apprezzare Roaring Abel. Quando il dottor Stalling era giunto a Deerwood per la prima volta, aveva sviluppato una predilezione per le lunghe escursioni attorno al Mista Wisse e al Muskoka. In una di quelle occasioni si era perduto e, dopo aver a lungo vagato, si era imbattuto in Roaring Abel, che aveva in spalla il suo fucile. Il dottor Stalling era in qualche modo riuscito a porre la domanda nel modo più stupido più possibile. Aveva detto: «Può dirmi dove sto andando?» «Come diavolo faccio a sapere dove sta andando, papero?» aveva ribattuto Abel con tono sprezzante. Il dottor Stalling si era così infuriato che non era riuscito a proferire parola per alcuni istanti, e in quel lasso di tempo Abel era scomparso nella boscaglia. Alla fine il dottor Stalling aveva ritrovato la strada di casa, ma non aveva mai provato il desiderio di incontrare di nuovo Roaring Abel. Nondimeno, venne ora ad assolvere il proprio dovere. Valency lo salutò con il cuore in tumulto. Doveva riconoscere a se stessa di avere ancora molta paura del dottor Stalling. Aveva la miserevole convinzione che se lui avesse scosso dinanzi il lungo dito ossuto e le avesse detto di tornarsene a casa, lei non avrebbe osato disobbedire. «Mister Gay», disse il dottor Stalling con gentilezza e condiscendenza, «posso vedere Miss Sterling da sola per alcuni minuti?» Roaring Abel era un po' sbronzo, appena quel poco che bastava per essere eccessivamente cordiale e assai malizioso. Quando il dottor Stalling era arrivato, lui era stato sul punto di andarsene. Ora, però, si sedette in un angolo del salotto a braccia conserte. «No, no, signore», disse con aria solenne, «non sarebbe opportuno, non lo sarebbe affatto. Devo salvaguardare la reputazione della mia dimora, devo fare da chaperon a questa giovane signora, non posso permettere che qui scocchi una scintilla a mia insaputa». L'ho oltraggiato, dottor Stalling. Assunse un'aria così terribile che Valency si chiese come potesse Abel tollerare il suo aspetto. Ma Abel non era affatto preoccupato. «Ne sa qualcosa, ogni modo?» chiese astutamente. «Riguardo a che?» «Riguardo alla scintilla», disse Abel come se niente fosse. Il povero dottor Stalling, che non si era mai sposato perché credeva nel celibato del clero, ignorò questo licenzioso commento, dette la schiena ad Abel e si rivolse a Valency. «Miss Sterling, sono qua in risposta ai desideri di sua madre. Lei mi ha pregato di venire, le porto alcuni messaggi da parte sua. Sarà», agitò l'indice, «sarà così gentile da ascoltarmi?» «Sì», disse debolmente Valency osservando l'indice, aveva un effetto ipnotico su di lei. «La prima è questa. Se lascerà questa casa», si interpose Abel. «Casa!» Ha difficoltà di linguaggio, non è vero, signore? E questo luogo e ritornerà a casa. Mr. James Sterling provvederà personalmente a pagare una buona infermiera che venga qui ad assistere Miss Gay. Per quanto terrorizzata, Velen si ridacchiò tra sé e sé. Lo zio James doveva considerare la situazione assai disperata per decidersi a sciogliere le stringhe del suo portafoglio a quella maniera. A ogni modo, il suo clan non la disprezzava né la ignorava più. Per loro era divenuta importante. Questo è affar mio, signore, disse Abel. Miss Sterling è libera di andare se lo desidera o può decidere di restare. Ho fatto un grande affare con lei e può scegliere di concluderlo a suo piacimento. Mi prepara dei pasti sostanziosi, non dimentica di salare il porridge, non sbatte mai le porte e quando non ha niente da dire se ne sta in silenzio. Tutto ciò è sconcertante in una donna, come ben sa, signore. Sono soddisfatto, se lei non lo è libera di andarsene, ma a nessuna donna pagata da Jim Sterling sarà consentito di venire qua. Se qualcuna si presenterà, la voce di Abel era sorprendentemente mite e gentile, imbratterò la strada con il suo cervello. Glielo riferisca con gli omaggi di Abel Gay. Dottor Stalling, un'infermiera non è ciò di cui si sia bisogno, disse Valency con serietà. Non è ancora così ammalata. Quello che lei desidera è un po' di compagnia, qualcuno che lei conosca, che le piaccia avere accanto. Sono certa che possa capirlo. Capisco che il suo motivo sia abbastanza lodevole. Il dottor Stalling si sentì di assai larghe vedute, soprattutto perché in segreto non credeva che il motivo di Valency fosse lodevole. Non aveva la minima idea di cosa lei stesse escogitando, ma di certo il suo fine non era lodevole. Quando non riusciva a capire qualcosa, lui la condannava senza mezzi termini. Era la semplicità fatta persona. Ma il suo primo dovere è nei confronti di sua madre. Ha bisogno di lei. La implora di tornare a casa. Le perdonerà tutto se soltanto tornerà a casa. Oh, è una gran concessione, rimarcò Abel in tono riflessivo, mentre frantumava del tabacco con le mani. Il dottor Stalling lo ignorò. Lei supplica? Mentre io, Miss Sterling, il dottor Stalling si ricordò di essere un ambasciatore di Geova, io ordino. In qualità di suo pastore e guida spirituale, le ordino di tornare a casa insieme a me, oggi stesso. Prenda il cappello, il cappotto e andiamocene, adesso. Il dottor Stalling agitò il dito verso Valency. Dinanzi a quello spietato dito, lei si sentì visibilmente mancare e venire meno. Sta cedendo, pensò Roaring Abel. Andrà con lui, dannazione! Quanto potere hanno questi predicatori sulle donne! Valency era sul punto di obbedire al dottor Stalling. Doveva tornare a casa con lui e arrendersi. Sarebbe tornata a essere Doss Sterling per i pochi giorni o le poche settimane che le restavano. Sarebbe stata l'intimidita e inutile creatura di sempre. Era il suo destino, come stava a dimostrare quell'implacabile indice alzato. Lei non poteva sfuggirgli più di quanto Roaring Abel potesse sfuggire alla sua predestinazione. Lo guardò. Come l'affascinato uccello guarda il serpente. Un altro istante. La paura è il peccato originale, disse improvvisamente una vocina nella remota coscienza di Valency. Quasi tutto il male del mondo trae origine dal fatto che qualcuno ha paura di qualcosa. Valency si alzò. Era ancora nella morsa della paura, ma la sua anima le apparteneva di nuovo. Non avrebbe mentito a quella voce interiore. Dottor Stalling, disse lentamente, al momento non ho alcun dovere nei confronti di mia madre. Lei sta abbastanza bene, ha tutta l'assistenza e la compagnia che le occorrono, non ha assolutamente bisogno di me. Qui c'è bisogno di me. Io resterò qui. Questa sì che è audacia da parte tua, disse Roaring Abel con ammirazione. E il dottor Stalling abbassò l'indice. Non si poteva continuare ad agitare un dito in eterno. Miss Sterling, c'è qualcosa che possa influenzarla? Ricorda la sua infanzia perfettamente e la odio. Si rende conto di quello che dirà la gente, di cosa sta già dicendo? Oh, posso immaginarlo, disse Valency con una scrollata di spalle. Ed un tratto fu di nuovo libera dalla paura. Non ho ascoltato invano 20 anni di pettegolezzi ai ricevimenti del tè e ai circoli del cucito di Deerwood, ma, dottor Stalling, non mi interessa minimamente quello che dicono, neppure un po'. A quel punto il dottor Stalling se ne andò. Una ragazza che non si curava affatto dell'opinione pubblica, per la quale i sacri legami familiari non avevano alcuna restrittiva influenza e che odiava i ricordi della propria infanzia. Oh! Poi venne la cugina Giorgiana e lo fece di propria iniziativa, già che nessuno avrebbe ritenuto di alcuna utilità assegnarle quel compito. Trovò Valency da sola mentre stirpava le erbacce dal piccolo giardino dove aveva piantato le verdure e l'assillò con le più banali suppliche alle quali riuscisse a pensare. Valency l'ascoltò con pazienza. La cugina Giorgiana non era una cattiva persona. Poi disse: "Beh, adesso che ti sei sfogata, cugina Giorgiana, puoi spiegarmi come preparare il merluzzo in salsa in modo che non diventi denso come il porridge e salato come il mar morto?" "Non ci resta che aspettare", affermò lo zio Benjamin. "Dopotutto, Sissy Gay non può vivere a lungo. Il dottor Marsh sostiene che potrebbe spegnersi da un momento all'altro." Mrs. Frederick pianse. Sarebbe stato assai più facile da sopportare se Valency fosse morta. Allora avrebbe potuto vestire il lutto.